pericolo. Non sono cinico, dannato né sadico, nel mio piccolo sono un piccolo grande lunatico. Ho provato a ingoiare, mi son detto dai uomo dai, uomo dai, uomo dai. Non sclerare, tutto fino a scoppiare. Mi hanno detto vai uomo vai, uomo vai, uomo vai. Non tornare, le mie rime colmano la distanza. Già ti vedo affacciata alla finestra della tua stanza. Fosse solo la mancanza data la circostanza. La speranza è la prima a morire. Ne ho davvero abbastanza, pure della sostanza che mi fa rivivere ma non decidere. Questa storia è una farsa, ma se fosse tutto finto, per le scene dure avrei la comparsa. Sono solo a lottare, e ripeto vai uomo vai, uomo vai, uomo vai. Non mollare, tutto fino a simare. Mi hanno detto dai uomo dai, uomo dai, uomo dai. Può cambiare, ho provato a ingoiare. Mi son detto dai uomo dai, uomo dai, uomo dai. Non sclerare, tutto fino a scoppiare. Mi hanno detto vai uomo vai, uomo vai, uomo vai. Scrivo cancello e se la incido l'ascolterai. Tu mi hai inciso l'anima, ho passato l'anima dei guai. Ma non mi hai ucciso, ho deciso di passare e dirti bye bye. E basta commenti, esaurimenti, basta col Xanax. E vai vai, vado a sgranchirmi le gambe in là. Ho rubato la luna ma so già che non basterà. Vado a fare due parole con papà. Non può darmi un consiglio, ma se sapesse quanto l'assomiglio. A 18 anni lottavo col mondo, mi vedevo tutti contro, ho subito ogni colpo. Perché ho azzardato non essendo né pronto. E ho già detto che non ho problemi pure a partire secondo. Ogni giorno una battaglia lo so. E i tuoi occhi sembrano dire che non ce la farò. Ma finora sono qua e ho la forza di raccontare. Quindi allora se ti va non si sforza e ti lascio stare. Sono solo a lottare. E ripeto vai uomo vai, uomo vai, uomo vai. Non mollare, tutto fino a simare. Mi hanno detto dai uomo dai, uomo dai, uomo dai. Può cambiare, ho provato a ingoiare. E mi son detto dai uomo dai, uomo dai, uomo dai. Non sclerare, tutto fino a scoppiare. Mi hanno detto vai uomo vai, uomo vai, uomo vai. Non tornare, io ti amo e quanto ti gonfierei. Io ti porterei più in alto e poi ti schianterei. Vorrei darti ancora un bacio e dirti che sei la peggio tipa. Ma il peggio è che per te resta a soffrirci. Questa storia non va. Ti voglio qua e quando poi sei qua ti voglio fuori di qua. E se sto a casa a farmi le canne ma non ti va, vuoi un consiglio? Inizia anche te, togli la cinità. Sono solo a lottare. E ripeto vai uomo vai, uomo vai, uomo vai. Non mollare, tutto fino a simare. Mi hanno detto dai uomo dai.